Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. I migliori risvegli del 2018. Dimmi che vuoi da me. Ma visto che insisti nel farmi le proposte, ti dirò qualcosa c'è che desidero da te. Una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone, una fetta di limone nel tè. Buongiorno a voi e buon mattino. Oggi apro il mio appuntamento rispondendo a una mail di Elena che mi chiede se al mattino è davvero necessario bere quel famoso bicchiere di acqua tiepida con l'aggiunta di limone o di aceto. Funziona davvero e perché? Per rispondere a questa domanda, secondo me comunque un bicchiere d'acqua al mattino dopo una notte di buon riposo male non dovrebbe fare, ma per rispondere a questa domanda ho invitato il dottor Gabriele Piuri, che è un medico esperto in nutrizione sperimentale e clinica. Buongiorno dottore. Buongiorno. Tra l'altro segue la rubrica L'esperto risponde sul sito eurosalus.com e dottore, lei gioca in casa, perché la domanda di Elena se la sarà sentita porre tante volte. Perché, un sacco di volte, sì. Perché in tante occasioni abbiamo suggerito e ci siamo sentiti suggerire a nostra volta di iniziare la mattina bevendo un bel bicchiere d'acqua. Poi ci sono le varie ricette, c'è chi dice aggiungi il limone, c'è chi aggiunge l'aceto, sì, chi con i semi di la mucillagine dei semi di lino, insomma le ricette sono infinite, ma lei che dice, allora, dottore? Sicuramente bere a prima colazione è importante, perché si arriva comunque a una fase notturna in cui non si è bevuto niente e quindi è importante reintegrare le riserve di acqua. Ma anche se non ho sete? Anche se non si ha sete, sì, nel senso che a volte la percezione della sete non è così presente, ma è comunque importante riuscire a prendere, a bere almeno un bicchiere d'acqua. Ma forse sono stati troppo così enfatizzati i benefici di questo bicchiere d'acqua, cioè non è che io bevo al mattino il mio bicchiere d'acqua, limone, aceto, vediamo le varianti, poi ne parleremo, e improvvisamente divento una pin-up, No, cioè, esatto. Resto uguale. Sì, assolutamente. Ecco. Nel senso che l'obiettivo è prendere quello di reidratare. Una delle funzioni sicuramente più utili del bicchiere d'acqua a prima colazione è quello che in realtà attiva un po' la parte digestiva e quindi in realtà favorisce lo svuotamento intestinale, tende a permettere di avere un pochino più di fame per cominciare a fare prima colazione. Quello è sicuramente d'aiuto. Tende ad avere comunque un effetto positivo generale, ma a volte tutti quanti i miracoli che vengono raccontati intorno a un bicchiere d'acqua la mattina tendono ad essere un po' epicizzati, esagerati. Anche sulla temperatura sembra che un bicchiere d'acqua tiepido caldino sia una mano santa per l'intestino, è vero o non è vero? Tende a essere più utile rispetto al fatto che sia a meno temperatura ambiente, nel senso che il fatto di prendere, di avere un bicchiere d'acqua troppo freddo tende effettivamente a irritare un po' la parte digestiva. Lì secondo me dipende molto dalle abitudini di ognuno, nel senso che ci sono persone che piuttosto che bere un bicchiere d'acqua tiepidina non bevono, non so come dire. L'importante secondo me è proprio quello di prendere, di alzarsi la mattina con l'idea di bere un bel bicchiere d'acqua. Ecco. Quello già fa tanto la differenza. Fa bene, non fa miracoli, però fa bene. Assolutamente. Ma io come faccio a capire se sono idratata bene o se invece sono un po' in riserva? Allora, il fatto, spesso purtroppo la sete non è un indicatore così preciso, nel senso che moltissime persone in realtà non percepiscono la parte legata alla sete. Una delle cose più importanti è quella di prendere e andare effettivamente a misurare quanto si sta bevendo durante la giornata, e le necessità idriche di una persona dipendono in gran parte dal suo peso, nel senso che evidentemente un omone di 100 kg deve bere di più rispetto che invece a una ragazzina di 40. Sì. E quindi in realtà è importante prendere e aumentare proporzionalmente la parte legata all'acqua da quel punto di vista. Un modo utile è proprio misurare in termini di bottigliette da mezzo litro tendenzialmente, nel senso che normalmente bisogna prendere e andare a bere indicativamente un 3-4 bottigliette di acqua al giorno, ben distribuite durante la giornata. Un altro temone è, a proposito, abbiamo iniziato con il bicchiere al mattino, fa bene, fa male, serve, non serve, limone, l'aceto, bere ai pasti oppure no? Lì ci sono anche qua il mondo un po' si divide. Ci sono delle persone che dicono: no, io a pranzo non bevo, bevo prima o dopo, perché se no mi gonfia la pancia, se no non digerisco, se no. O poi invece persone che pasteggiano normalmente con l'acqua e sono felici e contenti. Al di là di queste, ci sono queste delle, due fazioni, ci sono delle indicazioni. Sarebbe bene cercare di evitare di bere in maniera eccessiva durante il pasto, perché comunque bere troppo tende a diluire soprattutto la parte legata ai succhi gastrici, e quindi in realtà la capacità digestiva dello stomaco tende a essere un po' ridotte. Quindi se io ho una digestione lenta potrei provare a, a capire quanto bevo. Se mi scolo la mia mezza bottiglietta tutto in un pasto, mangiando magari il panino al bar, cosa, forse troppo. A volte è importante comunque bere durante il pasto, perché soprattutto alla fine è importante pulire la bocca, pulire l'esofago e le possibili residui di cibo che ci sono, però è sicuramente importante riuscire a ribilanciare un po' tutto quanto, e soprattutto se uno ci si rende conto di avere la pancia gonfia, di digerire male, di avere proprio questa sensazione proprio di discomfort dopo i pasti, la prima cosa da far, a cui fare attenzione è il fatto di capire se non si sta bevendo troppo. Sì. Dall'altra parte è importante andare a ridistribuire bene tutta quanta l'idratazione durante la giornata, perché ci sono persone che bevono soltanto durante i pasti, e se gli tolgo anche quella rischiano di non bere proprio più niente. Certo, quindi il consiglio è, anche sempre di buon senso, di equilibrio, distribuiamo l'assunzione di acque, ma noi diciamo acqua, ma anche i liquidi in generale, può essere generale, il tè, certo, può essere la tisana, e poi anche gli alimenti ci forniscono acqua, dottor Piuri. La frutta, la verdura, assolutamente, sono tutte quante indicazioni molto molto utili proprio per mantenere un aspetto legato a una corretta idratazione generale. E sicuramente più si vanno a utilizzare cibi freschi, la frutta e la verdura fresca, che sicuramente hanno una quantità di acqua maggiore, meglio è, più riusciamo a sopportare meglio la parte legata al caldo che comincerà presto in questi giorni. Dottor Piuri, bere può anche essere avere un effetto di integrazione, un effetto tra virgolette, lo metto tra virgolette il termine sbagliato, ma terapeutico. Sì, ecco, assolutamente. Noi in Italia siamo fortunati perché abbiamo tantissime acque diverse che a volte non prendiamo troppo in considerazione in generale, nel senso non ce ne rendiamo conto. In realtà abbiamo acque minerali diverse che è importante andare a conoscere. Ad esempio ci sono acque che sono effettivamente molto calciche, permettono proprio un'integrazione di calcio, anche se, come dicevi tu, la parola integrazione forse è sbagliata in questo caso, perché l'acqua ha tutti gli effetti un alimento, ma a volte per le persone che non riescono a mangiare sufficientemente formaggi per avere un supporto all'integrazione di calcio, anche semplicemente scegliere acque diverse può essere utile. Ma è calcica, è ricca di calcio? Che cosa devo vedere in etichetta? Perché bisogna mettendomi gli occhiali. Le etichette delle acque sono sempre molto molto piccole. Effettivamente bisogna andare a cercare nell'elenco dei minerali che ci sono nelle acque, in realtà c'è l'indicazione di quanto calcio c'è in un litro d'acqua. Mm. E quello è utile. Per definire un'acqua calcica deve essere maggiore di 500 mg, di 150 mg ogni litro. Sì. E questa è un'acqua calcica, ma ci sono acque in Italia che arrivano tranquillamente oltre 500 mg, che sono sicuramente quelle più indicate. Magari basta per cercarle. Le persone basta cercarle, leggere, inforcare gli occhiali. E va bene anche l'acqua a centimetro, millimetro zero del sindaco, perché sì, noi siamo il paese delle acque minerali, ma l'idratazione, noi anche l'acqua del rubinetto va assolutamente bene. Ciascuno scelga quello che più è comodo, ritiene giusto, corretto, eccetera. Anche perché spesso anche le acque che escono dal rubinetto sono comunque acque molto particolari. L'importante è capire che acqua esce dal nostro rubinetto, perché è diversa da paese a paese, da acquedotto a acquedotto. Quindi possiamo verificarlo questo, dottor? Si può cercare, sì. Spessissimo i comuni sono molto attenti alla qualità dell'acqua del loro acquedotto, e spesso sono molto informati sul tipo di acqua, più calcica, o comunque ci sono macro regioni generali. Certo. Dottor Piuri, prima di salutarla, gasata o non gasata? Dottore, lei dà delle indicazioni a chi le scrive o ai suoi pazienti, oppure ciascuno? Ma in realtà li lascio scegliere molto. Spesso l'acqua frizzante tende a essere più utile per favorire la parte legata alla digestione, e quindi magari durante il pasto è meglio scegliere un'acqua frizzante, mentre durante la giornata tra un pasto e l'altro effettivamente l'acqua liscia può essere più indicata, ma poi ognuno beve quello che vuole, l'importante è bere sempre, ma soprattutto quando il caldo si fa sentire, ma anche come in questo periodo un po' è mascherato, perché noi sudiamo ma non ce ne rendiamo conto, per cui mi raccomando, bevetevi un bicchiere d'acqua in più oggi, pensatemi. Grazie dottor Piuri. Grazie mille. Grazie a voi che mi avete seguito, io vi aspetto come sempre a mezzogiorno. Buonissima giornata da Nicoletta.